buongiorno. In animo abbiamo di parlare di vittorie, delle strutture delle rivoluzioni scientifiche secondo Buttiglione, della porta delle stelle, di parità e di ozio politico.